lo stabilimento di Termini Imerese, che ricordo a tutti è stato aperto nel 1970, cioè tranne quello di Fiat Mirafiori e quelli acquisiti è il più antico oramai dei cinque in Italia, è costato tra infrastrutturazioni, certo poco e mal realizzate, poi della Regione Sicilia e della politica, però soldi stanziati, pacchi di miliardi di euro. Gli incentivi sono stati ben 8 negli ultimi 20 anni della storia italiana, dicono la Fiat, sì, ma gli incentivi non sono aiuti al capitale, ho capito, però sono soldi del contribuente, ovviamente, fanno sottolineano i politici e i sindacati, e poi soprattutto i politici e i sindacati dicono, ma com'è possibile che in Francia il presidente Sarkozy, parentesi, che dico alla Fiat, sì, ha dato 5 miliardi del capitale ai produttori, a noi non ci ha dato niente nessuno, chiusa parentesi, però continuano i politici e i sindacati, ha dato gli incentivi e in cambio ottiene dai produttori francesi che non delocalizzino le produzioni all'estero, mentre noi non riusciamo neanche a impedirvi la chiusura di Termini tra poco e magari di Pomigliano anche domani. Bene, due linee in Fiat, o semplicemente una tattica di comunicazione tra Marchionne, che fa il più duro, che ha rilasciato interviste numerose all'organo internazionale specializzato dicendo bah, per me quei 5 stabilimenti in Italia non ci sarebbero mai stati o comunque non sarebbero dove sono, e che risponde poi la scorsa settimana al governo a testa alta, gli incentivi non sono affar nostro, decide il governo, noi siamo agnostici, noi comunque ci muoveremo secondo le convenienze dell'azienda, perché noi siamo un'azienda privata, non siamo il paese, da una parte. Dall'altra il presidente Montezemolo che dice faremo di tutto per salvare il lavoro, pensiamo agli operai, evitiamo polemiche. Tanti sono ovviamente gli interessi in gioco, tanti punti di vista. La mia opinione, e qui finisco, è che se davvero si scindesse una volta per sempre questa confusione plurisecolare della storia italiana tra Fiat e interesse nazionale, mentre la Fiat è un'azienda privata che deve essere messa in condizione di fare i suoi business, e dall'altra però a quel punto lo Stato la smettesse di mettere mano al portafoglio credendo in questo di maturare diritti per un'impropria risposta da parte di un'azienda privata, io credo che sarebbe un grande equivoco sciolto una volta per sempre, perché quell'equivoco è stato grandezza per lunghe fasi, ma è stato anche debolezza del nostro paese nella sua storia industriale. Noi produciamo così pochi autoveicoli, questa è la mia banale conclusione, perché abbiamo tentato di difendere un solo produttore, quello nazionale. Altri paesi hanno cambiato idea rispetto al fatto che bisognasse difendere i campioni nazionali. Pensiamo alla Gran Bretagna, producono molti più autoveicoli di noi perché hanno attirato con efficienza, basse tasse, migliore amministrazione, produttori da tutto il mondo che vi hanno aperto stabilimenti. Noi certo adesso siamo in condizione di non aver fatto la seconda cosa e di rischiare anche la prima.